I miei premi è al centro di Ad Alta Voce, siamo alla puntata numero 7, legge Elia Shilton. Ad Alta Voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard, traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Settima puntata. La mattina della consegna del premio era arrivata. Anche in quell'occasione dovevo tenere un discorso, ma io non sono un oratore e un discorso non lo so proprio tenere. Non ho mai tenuto un discorso perché non sono affatto capace di tenerne uno. E invece mi toccava tenere un discorso. È tradizione che tra i premiati, uno scrittore e un pittore e un compositore, eccetera, sia lo scrittore a tenere un discorso, che nella richiesta del ministero è definito discorso di ringraziamento. Ma, come sempre, quando dovevo tenere un discorso, non mi veniva in mente nulla. Anche in quel caso avevo riflettuto per settimane su quanto avrei detto, dunque sul discorso che avrei tenuto, ma non ero approdato a nulla. Che cosa c'è poi da dire in una simile occasione, se non la parola grazie, che a chi la pronuncia rimane oltretutto nella strozza e pesa a lungo sullo stomaco? Non trovavo un argomento per quel discorso. Devo forse parlare della situazione mondiale, pensavo, che come sempre era sufficientemente grave, o dei paesi sottosviluppati, o dell'inadeguata assistenza sanitaria, o forse del cattivo stato della dentatura nei nostri scolari. Devo dire qualcosa sullo stato in sé o sull'arte in sé o sulla cultura in generale, o forse dovrei dire addirittura qualcosa su me stesso. Trovavo tutto ributtante e stomachevole. Alla fine mi sedetti a tavola con mia zia per la prima colazione e dissi: non posso tenere un discorso, non mi viene in mente nessun discorso, non mi viene in mente nessun argomento, non mi viene in mente nulla. Forse dopo la colazione, disse la zia, e io pensai: già, forse dopo la colazione, e feci colazione, mangiavo, ma continuava a non venirmi in mente nulla. Avevo ormai addosso il mio completo da cerimonia, il monopetto color antracite con la cravatta già annodata, e faticavo a mandar giù gli ultimi bocconi della colazione, e ancora non avevo nemmeno l'ombra di un'idea per il mio discorso. Nella testa, tutto a un tratto, non ebbi nient'altro che un sentimento di paura. Avevo paura di quel che mi aspettava, anche se non potevo sapere di preciso che cosa temessi. Temevo qualcosa di perverso e insieme di indebito e di iniquo e assolutamente penoso. Mia zia era già pronta per uscire, aveva di nuovo un aspetto molto elegante e io l'ammirai. Se solo avessi rifiutato e ora non fossi costretto ad andare al ministero, dissi. Ed ecco che al culmine della disperazione mi sedetti alla scrivania davanti alla finestra del mio stanzino e battei a macchina un paio di frasi. Anche stavolta non era il discorso che mi era stato richiesto. Anche stavolta avevo in mano soltanto un paio di frasi. «Solo un paio di frasi», dissi alla zia, e mi vergognai di leggerle le frasi appena buttate giù. Non ne avrei neppure avuto il tempo, perché dovevamo andare, prendemmo al volo un taxi all'angolo della Obkirkergasse e Grinzing Allee e ci facemmo portare in centro. Quel percorso fu il percorso verso il patibolo. La consegna del premio aveva luogo nel cosiddetto Salone delle Udienze del Ministero della Cultura, Arte e Istruzione. Quando vi giungemmo, i cosiddetti ospiti d'onore erano già tutti presenti, Mancava solo il ministro, il signor Piffel Percevic, il baffuto ex segretario della Camera dell'Agricoltura stiriana, che dalla sua carica in Stiria era stato portato direttamente al Ministero della Cultura, Arte e Istruzione. Dal suo compagno di partito, che era allora cancelliere. Di questo Piffel Percevic avevo sempre avuto orrore, perché era incapace di concludere in modo corretto una frase. Può anche darsi che capisse qualcosa di vacche e vitelli stiriani, o di maiali dell'alta Stiria e di concimaie della bassa Stiria, di arte e cultura non capiva comunque nulla, anche se dappertutto parlava ininterrottamente di arte e di cultura. Ma questo è un altro discorso. Il ministro coi baffi entrò nel salone delle udienze e la cerimonia della consegna del premio poté incominciare. Il ministro aveva preso posto in prima fila dove sedevano i premiandi, 5 o 6 oltre me. Anche questa cerimonia incominciò con un brano musicale. Era un brano per archi e il ministro lo ascoltò con la testa reclinata a sinistra. I musicisti non erano bene in forma e steccarono in molti punti, ma in occasioni come quella nemmeno si dava importanza a un'esecuzione corretta. A me, che i musicisti steccassero proprio nei passaggi più belli del brano, provocò una sofferenza fisica. Finalmente la musica finì e il segretario mise in mano al ministro un foglietto con il testo redatto probabilmente dallo stesso segretario, al che il ministro si alzò e salì sul podio degli oratori e tenne un discorso. Non ricordo più il contenuto di quel discorso. Vi venivano presentati tutti i vincitori del premio, veniva data lettura di alcuni loro dati biografici e vi si nominavano alcune delle loro opere. Naturalmente non potevo sapere se quel che il ministro leggeva a proposito degli altri premiati fosse vero. Quello che disse di me era quasi del tutto falso e inventato di sana pianta nel più grossolano dei modi. Disse, per esempio, che avevo scritto un romanzo ambientato in un'isola dei mari del sud, di cui io sentii parlare per la prima volta nel momento stesso in cui il ministro ne diede comunicazione. Era tutto falso quello che disse il ministro ed era evidente che il suo segretario mi aveva confuso con qualcun altro, ma io non mi scomposi più di tanto perché sono abituato al fatto che i politici in occasioni come quella raccontino solo sciocchezze e cose inventate di sana pianta, perché mai il signor Piffel Percevic avrebbe dovuto fare eccezione. Ma quel che non poté non ferirmi nell'intimo fu l'asserzione del ministro secondo la quale io, e ancor oggi me la sento letteralmente risuonare nelle orecchie, ero uno straniero nato in Olanda, che però già da qualche tempo vive tra noi, dunque tra gli austriaci, tra i quali il signor ministro Percevic non mi annoverava. Ammirai la calma con cui avevo ascoltato il ministro. Non bisogna rinfacciare che viene dalla provincia la sua provincia, ma quando uno si comporta con l'incomparabile arroganza del signor Piffel Percevic, occorre all'occasione registrarla. Un sussiego in effetti indescrivibile era dipinto sul volto tutto sommato ottuso e totalmente insensibile e privo di senso artistico del ministro della cultura mentre comunicava alle persone lì riunite chi fossi. Ma è probabile che anche in quel caso, a parte i miei amici, nessuno si fosse accorto che sul mio conto il ministro snocciolava in sala solo falsità ammantate di sussiego. Non provava nulla. si limitava a leggere semplicemente ad alta voce, con il tono monocorde che gli era naturale, la sventata abborracciatura del suo segretario, una falsità dietro l'altra, un affronto dietro l'altro. Avevo davvero bisogno di espormi a tutto questo. Durante il discorso del ministro mi domandai ancora se non avrei fatto meglio a non venire, ma ormai la domanda non aveva più un reale significato. Me ne stavo seduto lì e non potevo difendermi. Non potevo semplicemente balzare in piedi e dire in faccia al ministro che le sue erano tutte sciocchezze e menzogne. Non potevo farlo. Cinghie invisibili mi legavano la mia poltrona. Ero condannato all'immobilità. Ecco la punizione, pensai. Ecco che ti viene presentato il conto. Ora hai fatto comunella con loro, con quelli che se ne stanno seduti in questa sala ad ascoltare con orecchie adulatrici Sua Santità il Ministro. Ora sei uno di loro. Ora fai parte anche tu di questa marmaglia che ti ha sempre fatto andare in bestia e con la quale in vita tua non avevi mai voluto avere niente da spartire. Te ne stai qui seduto col tuo abito scuro a incassare colpo su colpo, un'insolenza dietro l'altra, e non ti muovi, non balzi in piedi per allungare un ceffone al ministro. Mi esortai a mantenere la calma. Continuai a dirmi: calma, calma, stai calmo. Me lo ripetei finché il ministro non ebbe finito con la sua sussiegosa insolenza. Avrebbe meritato ceffoni. Invece ottenne fragorosi applausi. Anche qui le pecore applaudivano il dio che le pasceva. Nel bel mezzo dello scrosciante battimani il ministro tornò a sedersi e ora toccò a me alzarmi e salire sul palco. Tremavo ancora dalla rabbia, ma non avevo perso il controllo. Tirai fuori dalla tasca della giacca il foglietto con il mio testo e lessi, magari con voce tremula, può darsi. Anche le gambe mi tremavano, come naturale. Ma non ero ancora arrivato in fondo al testo quando la sala si fece irrequieta. Non sapevo proprio per quale ragione, visto che leggevo il mio testo in tono tranquillo e il tema era di natura filosofica, seppure di una certa profondità, come avvertii, e benché un paio di volte vi ricorresse la parola Stato. È un testo di grande pacatezza, pensavo, col quale qui, visto che quasi nessuno lo capisce, posso levarmi d'impaccio più o meno senza chiasso. Trattava della morte e del suo strapotere e della risibilità di ogni cosa umana, dell'impotenza e caducità dell'uomo e dell'assoluta irrilevanza di tutti gli stati. Non ero ancora giunto in fondo al mio testo e già il ministro era balzato in piedi con il volto paonazzo. Era venuto di corsa verso di me e mi aveva buttato in faccia un insulto incomprensibile. Stava di fronte a me al colmo dell'agitazione e mi minacciava, anzi, si diresse verso di me con la mano irosamente alzata, mosse ancora due o tre passi verso di me, poi fece un improvviso dietro front e abbandonò la sala. Dapprima si precipitò da solo, senza accompagnatori, verso la porta a vetri del salone delle udienze e se la sbatté alle spalle con un gran botto. Tutto questo avvenne nel giro di pochi secondi. Non appena il ministro, stravolto dalla collera, si fu sbattuto alle spalle con le proprie mani la porta del suo salone delle udienze, in sala ci fu il caos. O meglio, sulle prime, dopo che il ministro ebbe sbattuto dietro di sé la porta, regnò per un istante un silenzio imbarazzato. Poi scoppiò il caos. Quanto a me, non capivo affatto che cosa fosse successo. Avevo dovuto subire lì un'umiliazione dietro l'altra e poi avevo letto quel mio testo inoffensivo, così credevo, e a quel punto il ministro si era incollerito e aveva abbandonato la sala furibondo e i suoi vassalli si erano scagliati contro di me. L'intera muta presente in sala, tutta gente che dipendeva dal ministro, destinatari di prebende e di pensioni e in testa a tutti il cosiddetto Senato dell'Arte che probabilmente presenzia a ogni cerimonia per la consegna dei premi nazionali, si precipitò dietro al ministro, fuori dal salone delle udienze e giù per l'ampio scalone esterno. Ma quella gente che si precipitava dietro al ministro non si precipitava dietro a lui senza aver prima gettato almeno un'occhiata malevola su di me che a quanto pareva ero stato la causa di quell'incresciosa scenata e della brusca polverizzazione della cerimonia. mi gettavano le loro occhiate malevole e si precipitavano dietro al ministro, e molti di loro non si accontentavano delle sole occhiate malevole, mi minacciavano anche con i pugni alzati, in testa a tutti, come ben ricordo, il presidente del Senato dell'Arte, il signor Rudolf Hens, un uomo che all'epoca aveva tra i 70 e gli 80 anni, si precipitò verso di me e mi minacciò con il pugno alzato e poi si lanciò con gli altri all'inseguimento del ministro. Che cosa ho fatto? Mi chiesi, abbandonato all'improvviso nel salone ministeriale delle udienze e ben presto solo con mia zia e due o tre amici. Non mi ritenevo colpevole di nulla. Il ministro non aveva capito le mie frasi e poiché ero ricorso alla parola Stato in un contesto non servile ma assai critico, era balzato in piedi e mi aveva investito e poi era corso fuori dal salone delle udienze e giù per lo scalone esterno. E tutti gli altri, con le poche eccezioni cui ho già accennato, si erano precipitati dietro di lui. Il rumore della porta del salone delle udienze sbattuta dal ministro me lo sento ancora oggi risuonare nelle orecchie. Non ho mai sentito sbattere una porta con tanta forza. Me ne stavo lì e non sapevo che cosa dire. Mia zia e gli amici, non più di tre o quattro, si erano stretti intorno a me e non sapevano nemmeno loro che risposta darsi. Tutto il gruppo si voltò a guardare il buffet, che era ancora fiancheggiato da due camerieri distaccati probabilmente dal Zacher o dal Bristol, irrigiditi dall'emozione, e si chiese che cosa ne sarebbe stato di quel buffet ancora intatto. Finirà in una casa di riposo, pensai. È stato il ministro a offenderti e non viceversa, disse uno dei miei amici. Era una parola buona. Ha offeso tutti quanti, dissi io. Il ministro ha sbattuto la porta del salone delle udienze con tanta forza che i vetri saranno andati in frantumi, ho pensato. Ma quando ispezionai la porta del salone delle udienze, risultò che nessun vetro era andato in frantumi. Solo dal rumore era parso che i vetri della porta del salone delle udienze fossero andati in frantumi. L'indomani i giornali scrissero di uno scandalo provocato dallo scrittore Bernhard. Un foglio viennese che si chiamava Wiener Montag scrisse in prima pagina che ero una cimice e bisognava annientarmi. After all the close-up shots of you, they'll spray an alley with a hose, and we'll all stay together. Then we'll Settima puntata dei miei premi di Thomas Bernhard, letta da Elia Shilton per Ad Alta Voce, nella traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Le edizioni sono quelle di Adelphi, e Ad Alta Voce, come sempre, un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara D'Ambros. Ed è sempre un programma che può essere scaricato puntata dopo puntata in podcast da adaltavoce.rai.it.